ci sei, Luca? Staziano! Ehi, ciao, vabbè, cosa stai facendo? Mi sto allenando a fare i respiri del polmone con un attrezzo che mi hanno fatto comprare. Tre palline gialle e rossa, devo aspirare la terza. Ore, ACC. Ma ci sono, grazie. Sto regolando lo squelch, sto regolando. Ti ho sentito, no, tanto stavo facendo l'allenamento del respiro. E allora continua così. Fratello, adesso ho finito il video. Sì, ok, grazie. Poi entrano. E adesso mi faccio l'aria rosa e poi che l'accende, è acceso. Sì, già sono qua sino alle 6:30, 7:20. E intanto faccio l'aria rosa. E dopo come vai? Con il piumone a far funzionare il tuo gol. Quindi devi aspare e espirare e trattenere e devi sollevare le palline. Sì, piano piano, aspetta che c'è qualcuno che ti è entrato sotto. Chi è che voleva entrare? Aspetta prima di cambiare di sopramodulata, da voi non entrano. Avranno imbagliato. Tutti i geni, se vuoi entrare già entra. Vabbè dai, grazie, sto cercando di regolare questo squelch, ci perdisco. Adesso mi faccio l'aria rosa, già è acceso qua. Ok, vabbè, a dopo là. Grazie, allora si prendi. Sono a prova. Per il respiro. Ehi, Alucci, ti ho mandato il video, non l'hai visto? Guarda di buona risata. Adesso mi devo fare l'aria sotto. Ma la sorte è difficile. E anche quando fai quella spirometria non è facile. Non è così, fare un gioco, barra, come gioco. Mi vuole il piumone, adesso ho tre palline di nuda. Ne sollevo una da 900 e una da 1200, quella da 600 manco si muove. Cioè l'ho mossa un pochettino e un colpo di respiro più forte, ma va, mi dice la ricetta di bibiliscri. Vabbè, tu fallo, futidini. Ma penso che staranno molto meglio adesso, eh. Sono a furia di cortisone, a furia di azzato prima. Aerosol, tutti i bacilli, più la bacilli va via, fare un dollaro, non mi guarda il video che ti ho mandato, vado luci, brillante. Ma tutto questo coso qua da cosa è dovuto? Che mi si chiudono i polmoni perché ce l'ho cronica, capito? Allora, ma una volta all'anno mi butti sempre, mi si chiudono i polmoni e non respiro, allora devo andare a far portare all'ospedale. E poi ti si crea del liquido in qualsiasi parte. L'altra volta mi si è creato in panza, l'ultima volta il lanchi, mi aveva detto che la volta invece era il liquido, sempre dipeso dal polmone perché si chiude. Ecco perché è cronico, ho capito. E vabbè, ma devi stare attento a che cosa, però ai colpi d'aria, alle correnti d'aria, hanno pigliato freddure e hanno contagiato influenze perché c'è i polmoni malati cronici e mi rimballa, mi risarra subito, mi prende l'infezione subito e si chiudono, capito? Allora tu stai attento per quello. Il cazzo mi ha detto, dici, so cos'è presente un gatto, siccome era influenzata a Paoletta, e l'ha detto noi mi ne contagia avanti. Infatti il primo giorno non me ne sono capitato di nulla, la seconda lì mi duria un po' con la bitorra e questa tosse piccolina, la terza lì ero morto. E giusto video, ma il cazzo sei verde, ha chiamato la volata e mi sta fatto buttare i pedali. Perché non stavo respirando bene, ero giù fuggendo in pochi baraoni. Ti credo, e te credo. Tu stai attento per quello. Alle finestre sono chiuse, alle correnti lì, e qua tira un bel mico, in zona tira un bel la corrente. Lo posso mia, adesso mi faccio l'aria su, là. Poi ti chiamo, se no no che dopo faccio i bucci e me ne farò un quarto d'ora, là. Capito? Che me lo devo fare a puzza. E lì ci mi si va già stare la glicemia, ma me l'ho misurata, dopo me la misuro dopo l'aria su. Ok, io sono qua, là. Ciao. Sì, da dopo, già acceso, già ti chiamo quando finisco. Ciao Grazia, buonasera. Guarda che ti ho mandato un video, guarda. Già l'ho visto, già l'ho visto, quattro me l'hai mandato. Già l'ho visto, già Grazia. Adesso mi sto facendo l'aria azzurra. Ma non parlare, quando stai facendo queste cose, non parlare, fregatene, pensa alla salute. Dopo che finisci magari parli. Vabbè, Giovanni, dormito, sì. Finito l'aria zollo. Fatto, avanti, bigiù, giusto, io ho messo la mascherina nuova, che è più veloce questa. Questo è un treno, è più aspira più bene. Meglio così, dai. È anche più grande, funziona di più, e tira di più, capi? E poi non la devo mantenere in mano, si la picca a faccia. Ettore. Ettore sta impegnato guardando non so cosa a farlo funzionare. E però all'insieme ha detto che doveva uscire, doveva prendere la moglie. Si sentirà dopo quando viene. Luca c'era, non so cosa sta facendo. Sta regolando lo specchio, ma sono apparecchio. Ettore, finito hai. Hai impegnato, e dai. Facciamolo fare. Se lo interrompiamo non ci riesce più. Hai visto su Facebook una radio sta vendendo Luca Flipper. Però non so cos'è che funziona, però la radio che funziona. Cazzo barato, 300 euro, regali la comparecchia. Adesso non mi ricordo che radio è, S9 mi pare, boh. Quello costa solo 400 euro, costa nuovo, Quello costa solo 400 euro, grazie a... ma quello è il signor apparecchio, È un apparecchio americano quello lì. Ma quel prezzo non lo vendono, non ce ne riesci. Venirà lì uno, la salita, chi si vuole, ma stessi, della Iaesu. Non so quanto le muria vanno, me ne ammento. Ho una bella radio, l'ho vista, dimmi se poi porto a torre, mi sembra era di Sandro. Era nuova, non so cavarsi la vendita, non ci ho controllato se c'è ancora. E le muria a stessi drutti. Perché sono apparecchi costosi, capito? Apparecchi buoni, ecco, faccio me. Anche sui bei, tu basta guardare sui bei, i prezzi sono così, capito? Là? Ecco perché metto questi prezzi così. Però sono apparecchi che costano, ecco. Che se magari ci guastano trovi il pezzo facilmente, mentre gli altri tipi che costano poco magari non trovi il pezzo, capito? Aspetta Mari che me ne piego l'aria giusta sul tappo. Avanti che vuoi sullo ossigeno. Piano fai così, vai. Ma senza parlare molto, perché certe volte stai mezz'ora parlando, grazie. Ma se mi credi che faccia bene a portarti parlando troppo, capito? Fai passaggi corti e ti riposano i polmoni, capito? Avasso con tutta la vita l'ossigeno, avate col caso, tutta la notte e tutta la vita, prima invece la zia. Tutta la notte, 4 ore la mattina e 3 ore la sera, capito? Invece adesso lo devo tenere tutto il giorno e tutta la notte, 24 ore su 24. Vuol dire che c'è la necessità, grazie, perché diversamente non si può fare, perché ne soffrono, capito? Allora devi per forza mettere tutto il giorno, però... non si deve affannare uno, capito? Specialmente in quelle condizioni tue, non è che ti debba affannare parlando, ecco, lo faccio mentre ti fatti io di culo. Ah, da molte parti Graziano sta affannando così un bene, capito? Perlomeno io magari la penso in questo modo, non darsi non sia così, ma penso che sia così, grazie a capito. Cioè così allora mi ha distrutto fuori là di prima che me ne doveva andare. Ciao Cambo mi ha fatto resuscitare 5 che se ne stavano andando. Ieri sera erano color giallo, ocra, verde. Se viene adesso giù con me gli faccio vedere belli rossi pirfantelli, me li ha fatti resuscitare perché si sentiva girare giù, a mitigliare il pizzaggioso. Per un po', gatta, ma la fedica. E mi ha fatto resuscitare. Ok. Bisogna prenderla così, grazie a che sennò guai. Beh, meno male ti riesci a rivivere, gatto, con l'apparecchio, Cazzo, è quello vuol dire molto, Già non credi, allora, e poi adesso in mano, non sai cosa faccio sulla destra? Una specie di macchinetta che lo devi schiacciare a chi mi sta venendo nei crampi e mi sta crancando le mani. E poi un po' a destra, un po' a sinistra. Vedo un po', cazzo, per carità. A che punto arrivi Cristiano, gatta? Però oggi che ti metti che dice oggi si riesce a vivere di più, dai. Perché adesso le medicine, capito? Ci sono medicine che fanno il contratto tra di loro allora ti fanno venire i grammi e devo buffare pure i diti e assai farà le braccia un prezzo per tirare i tendini. Vabbè ogni tanto alla busca dell'anca o alla guscia cacchi grappa cazzo non è poco fa di rimare che ando bene di me cazzo metta il dolce bari il tavoletti bari a tognati chilo io perché lo devi dire al medico, il medico ti ordina quelle pastiglie D3 si chiamano e sono a succia dura, è un barattolo, ce ne sono 100 dentro ed è vitamina D3 e serve proprio appositamente per quando c'hai grampi, vitamina Ballussi e per i tendini. Infatti è così, ma fa bene anche massaggiare i muscoli, quando i muscoli sono massaggiati è difficile che vengano questi grampi, capito? Però vengono ogni tanto, non molto spesso, capito? A me mi venivano spesso prima, a sotto la pianta degli ubbini, e da poi al pollice del piede, al dito, mi si allagava 20 centimetri, domani dall'artrite, d'ugna d'urore. Poi l'anca secca come un rullo, una rocca, tutta gravalla, ugna d'urore, me ne pisavo in canna da rullo. Non posso immaginare, mamma mia, che è successo anche per me possibile. Gatta, per carità, o quando si ti fa di rubare il dolce, non c'è l'anca doccia, no? Dallo sfruttaiolo ti si fa di pare che ti sia i re di rubini se ti gioco di tenni mi ne preso in canna la ruota e sbatto il calcagno a terra rugarroni e così mi batta però se puoi camminarsi se no si blocca non cammini e poi gusori. Grazie, mi devo assentare un attimino. Vai, tanto sto con un allenamento alle mani, alle braccia. Mi lascio tutti i nidi, tutti bene di matoma, come ti va bene tutti i cibletti, già l'hai visto. Luca addormentato, ti sì. No, non mi stavo facendo la doccia, grazie. Oggi è una bella giornata. Ma non sei esci dal luogo? Sì, sono andato a sistemare, a fare un favore, a mettere in moto un tagliaerba che non partiva. Anche se mettevo la benzina, nulla, non passiva, nulla, ho dovuto mettere un po' di benzina nella candela e un po' nel carburatore. Gli ho fatto gli ho tirato un paio di volte la cordicella e pasciuta da poi. E gli ho lasciato un po' accesa anche il gruppo elettrogeno che era da un po' fermo. Anche quello non partiva e gliel'ho fatto partire. Ma nel decispugliatore lo sai cos'hai? Le membrane, quelle vogliono cambiate, quando allora dopo spesso un periodo del decespugliatore poi non lo adoperi, uno si rimbiodi e tu te lo commetti a una parte. Alla prossima volta che lo riprendi magari riparte. E quando vedi che non riparte è perché ha bruciato le membrane, praticamente le membrane sono le guarnizioni del carburatore. Dunque le smonti, vai alla stazione delle gomme e te le danno uguale, le porti, c'hanno un libro, guardano la sezione e così hanno il 5-6, gliele cade e parte alla prima. Ah, ma è nuovo, sta taglia erba, grazie, l'ha lasciato un po' fermo, non so quanto, e non è più partito. Alla Sassarese gomme vado. No, alla Sassarese agricola, a Predanizza. E tu hai detto Sassarese gomme? Oh, mi sarà sbagliato, Sassarese agricola. Io ero andato per il mio, perché pulito, candela, smontato, carburatore, tutto pulito e tutto. Ho toccato le guarnizioni, si sono un po' poco a poco rigidite, non rimangono morbide. È per quello che non mi parte. Infatti adesso lo devo rismontare, il carburatore, manda mia figlia e le faccio comprare e gliele cambio. Ho due guarnizioni di driti, insomma. Sì, ma tanto va, non puoi fare nulla, cosa puoi fare? Solo con l'ossigeno puoi travagliare. No, ma lo dà mia nipote a farlo funzionare in campagna, capi? Adesso già me la sta tagliando mio genere in campagna. Ah, ho capito, ia. No, questa qua è nuova, dai, no, è partita, diciamo, subito, perché non arrivava benzina, infatti ho messo un po' di benzina, miscela, dai, no benzina, e poi ne ho buttato un po' nel carburatore, e ha riempito il cicchettino, mi sembra c'è il cicchettino, quello in plastica, quello lì, e niente, poi... Quando ho tirato era un po' affogata, allora cosa ho fatto? L'ho mezzo aperto, mezzo chiuso l'aria, come ho tirato è partita subito. Se è nuovo già funziona ancora, però che ci va giù, cioè è nuovo, funziona benissimo, è un treno. Però oramai la guarnizione beh, è andata, capi? Io adesso quando gliela cambio, al primo colpo parte subito, capi? Abbiamo pagato 40 euro e chi gliela butti. Ho visto cosa gli ha fatto, che gli aveva già lui le guarnizioni nuove lì. Ho visto cosa gli ha fatto, in mezz'ora mi l'ha dato e ha già pagato 40 euro. Loro si fanno pagare. Vabbè, comunque già ho risolto, dai. Poi c'è, mi vuole regalare un gruppo elettrogeno che ci bisogna piazzare un... dove c'è la cordicella, no? Quello lì che è mezzo rotto, ma cioè, tu siamo in forza, un lupo rigarà. Cazzo, prendilo, basta, lo rifare, lo vendi, lo metti su compra e vendo, se lo compare già nei subito. Boh, o se lo tieni di scorta, ti può servire, manca la luce, correnti, e poi ad utilizzare quello. Ah, c'era uno nuovo, lo stavo vendendo perché non lo utilizzava, 180 euro mi pare. Ah, io mi l'avevo... È bello. E chi sei parato, usami il gioco? No, mi ha chiamato mia figlia, che l'aveva mandato un filmino di quello del respiro. E mi ha detto che devo trattenere il respiro. Oh, dice, stanotte già te lo faccio vedere. E stanotte non arriva, domani. Ah, tua figlia grande? Sì, che è a scuola, è all'università, gli ha mandato il filmino che ho mandato a te. Sì, vabbè, piano, dai, si fa, io. Ehi, noi è facile assai, mi devi trattare, devi ispirare, devi aspirare, poi tutto un colpo devi ispirare e riaspirare, cercare di trattenere il respiro, così quelle palline devono rimanere su tutte e tre, ma io tutte e tre pensavano per la giubbata, solo due, ma neanche molto, un paio di secondi e la giumullata, e le cuffie. Beh, non posso immaginare. Vabbè, però piano, dai, ecco. Meglio di casare da limpidare già, Ah, beh, meglio di farle chiedarci con questo macchinario che mi si pulì a zacca a puzza. Ah, a ventola. Tipo mi bombava un'aria a casa, mi ha trattato giusto. Gli ho firmato anche il foglio, perché mi ha detto che loro non volevano responsabilità. E lei l'ha detto, io se voglio crepare, crepo come mi piace, io quello lì non lo resisto e non me ne metto. Anzi, chi ci mi dà la sensazione di ammazzarmi prima? E non mi ha detto, mi ha trattato giusto e mi sono giù fatto in carriera. Ah, quello è... come si chiama? Lo fa il padre di Marina la notte. La ginnastica respiratoria. È un avvento, è un macchinario con dei tubi, contro tubi, e già dei piollini che te li attacca all'elettrodo del cuore che ci aveva attaccati. E però questo macchinario ti manda aria calda e a me mi dava una sensazione di farci rubiuto, mi uno strapiombo. Grazie, mi hanno trattato tutto, mi sono pisato in canna da lui. E mi erano mantenendo in cinque, l'ha detto bello bene, cazzo mi non so più in carina. E mi ha fatto fermare il foglio che mi sono rifiuto a te, dai portami il foglio che troppo, ma non me ne metti io di questo. Non lo resistevo. Ma anche al padre di Marina, quando era ricoverato, lo volevano ancora lì, capito? E lui ha firmato e se ne è voluto andare, ma già è guarito, vero Mario? Tuo padre è guarito, vero? Si è guarito da solo praticamente, ha fatto la cura ed è guarito. No, siccome per questo macchinario ti fanno firmare, lo vuoi o non lo vuoi, capito? Io le dico, no, io rifirmo che non ne voglio. E a me mi dà una sensazione brutta questa. L'ho provato, non è che l'ho provato, che non l'ho provato. Sicuramente la gente che noi la bambina che mi intendia a fare niente in un vuoto, e praticamente mi sembrava che non respiravo più, lo in gloria, e il murenne, e mi ha trattato con tu, e tra di tutti non amare. E non è che tu a me mi puoi obbligare a fare una cosa che io non voglio. A me mi dà quella sensazione e non li posso, davvero ci credo, cavoli miei, ho preso, ti preoccupato. Ma ti volevano dare quella macchina per fare la cosa, come si chiama? Vabbè, quello che ti ho detto prima. È una macchina che si chiama ventilata e ti ventila, ti ventola, drenta in bocca. A bocca a bocca deve rimanere, cioè rimani con questo tipo di macchina, sei costretto a rimanere a bocca aperta, non la chiudi la bocca, e ti bomba l'aria a gas a dentro, compreso, e poi devi, praticamente devi aspirare e col naso schiattare, ma io non ce la facevo, cazzo. Ecco, se uno vuole avanti, non vuole avanti, c'è da foga, no? Mi stava affogando, si è chiuso così, mi dava quella sensazione. Ti veniva quella sensazione di scenderci per esempio nel vuoto, in un vuoto che non arrivavo mai, a chi non è più riuscendo a ripirare, compreso. Ehi, grazie. Vabbè, curati tu. Comunque il padre Maria lo stesso lo volevano tenere lì, perché sono andato io, l'hanno voluto parlare i medici. E gli ha detto che è meglio che rimanga qua. E allora il padre l'ha rifiutato. E si è fatto la cura a casa, già sta meglio, dai. Sì, ma non faccio che mi erano a mantenere in 5, non ha giù compreso. Cazzo, bello, mi sono pisato in canna la ruota, mi sono buttato in cucina. Ma non te ne ma che cazzo si difende? Ma te fuori di laggiù. Non hai compreso, mi erano a mantenere, abbia a voce. Ma così a forza no, se uno non lo vuole non lo vuole, punto. Poi se uno è obbligato a farlo lo devi fare, grazie, è a tuo rischio. No, io non sono obbligato da nessuno, io ti sto dicendo la sensazione che a me quel macchinario mi dà e ti dico che non ne voglio fare. Cosa devo firmare? Firma e non ne voglio, fatti tutto. Da voi se capo capo, se crepo saranno i fatti miei, non sarei un padrone di me stesso, o no? Ma loro sanno cosa devono fare, sono lì messi per caso. Il medico l'indomani gli ha detto che io non ne avevo bisogno, il medico proprio, il primario del reparto, gli ha detto, signor Carmoni, quel macchinario all'indomani mattina, io che gliel'ho detto, a chiamare, è andata da Rubrimario, la chiamata e la ditta Rubrimario a quelli lì, a quella dottore, a quelle due dottoresse, una, due dottoresse e tre dottori. Gli ha ripreso, gli ha detto cosa? Che io non avevo bisogno di fare quel macchinario. E dimmi gli Uriani va a puzza, non hai compreso. No, insomma l'hanno visto che ne avevi bisogno, non lo so come funziona, l'obbligato, un obbligato, capito? La capisci, ma la giovinù non sta entrando in tubo, oggi te il cazzo mi raspirendo, non salve, infatti l'indomani la sera è muscolo. L'indomani la sera è muscolo? Ehi, la notte l'hanno aspirato con un tubo da 30 runaggi, sia da un buco che dall'altro. E dopo mi sono attaccato i ragazzi, un altro tubo più grosso, di notte, mi. E allora io l'ho visto. E poi l'indomani è morto qui. Dugna zicchi rugante un berro, chi su bovaraccio. E l'hanno anche legata a quello, le gambe e le braccia, alle ringhiere del letto, e più le erano mantinelle. Mire domani c'è il cavallo secco. Boh, ma carità. Ma così no, ma anziano era. Mi pareva via a 72 anni, non è così. Ma è lì ogni notte. Tu devi vedere cosa è lì. 5, 6. Si ributta lì alla camera mortuaria. Si avasci che femmini. Vabbè, purtroppo è un casino. Magari sa cosa va via. Quello è un reparto che si sbocca nella gente di mica, non so a costare. Si vira quanti gacchè di e puro truppo. Se no la sera matta si ti arregali, si fa l'entrata e l'uscita. Ma sì che femmini. Dati un'uscita. Non facevo ossigeno, non riuscivo mai a camminare. Mamma non riusciva mai a camminare. Usava quel coso, come si chiama? Quello, adesso non mi ricordo come si chiama, vabbè, se c'è il carrellino, dai. La spalliera si chiama, quello che ti appoggia e cammini, l'andarino. Non lo so come si chiama, comunque quello lì, sì. E poi finisco i via, tanti imbecilli bisogni, che si ha femmine, il più le femmine, non tanti maschi, miserabili, gli infermieri, non te la badà questi che sono refatto. Grazie, è un casino, sì, purtroppo. È un casino perché se ero in un ospedale poi allora gliene frega niente. Sanno quello che devono fare, non è che... Io non so come ti funziona l'ospedale. Infatti quando veniva, ma sono nato, certo che sono nato, non si è visto nessuno e mi sono arrangiato della gente. E cosa siamo, fai da te? E beh certo io faccio da me. Se tu non vi vieni, non mi posso fare un problema attaccato più, tu hai tenere come li dai. Quando vieni di voi, no? Io lo so fare e me ne lo levo da solo. Problemi ci sono. Così li zia, me lo hai compreso. Loro si credono che sono padroni della persona che c'è lì. Ma con me, con Moccano e Bocco, tutti i giorni ci sono cominciati a ripetere praticamente quasi ogni anno. Mi gioco di magagni e poi le so fare quelle cose che fanno loro, dunque sono tutte stronzate per me. A pulitino plebo, la farfalle, la bucata in nera, a fare l'iniezione. Addirittura a uno di lì, se vuoi te lo imparo quello che stai imparando tu, perché tu adesso lo stai imparando, io lo so già fare. A bella Davide. Beh certo, vabbè grazie, dai. Il più è passato, dai. Ma dico, ci sono sempre gli imbecilli. È come l'anno scorso, chi di infermiera a Menivelli da qui l'ha guardato che mi sono ripreso. A chi ero andato. E allora sai che tu mi sa stare di me. Devi dare da me che ti ha giuro fatto campa io. E davvero, lui lo farei tu e hai fatto, se mai fatto campa tu. E cosa si paga da fare? Allora ci ha mangiato. Ma paccarete, ma così... E a chi aveva preato con un marito brutto, io la gente già lo danno i luci, hanno un telefono con un marito. Che un marito da frigorifero, la di lì stava lampadero brutto. Ha tutto un reparto, l'ha detto da voi, ai colleghi. E la gente già era incazzata, ma poi mi è giunta roba delle scatole a me, a dirmi che faccio riposare. Boh. Te l'ho detto, avevo un sacco di gente in mezzo esaurita, io. Cosa di che? Sei anni tutti zincari. Oh, io, un aggiunto di colori in ospedale, di dì e di notti, mi. Per carità, di notti non li fa vedere. Vabbè. Non mica devi fare quello che dicono loro, però. Molte volte. La mamma lo mate, si è arrivata a groga. A chi non lo so. Ha detto, guarda che io qua manco ci volevo venire, adesso stavo crepando in casa. Mi hanno costretto, se no non mi ne affutti a lui. Che cazzo sei venendo a dirmi se vivo un bambino, a me cosa cazzo mi ne affutti. Pensa a fare il travaglio, ti piace se non cambia mestiere. Così la giudici. E cosa si crede, mi fate a faccia il rubio. E da capace, ma lo si. Lo so, ma loro fanno tutto quello che vogliono lì. Ecco, che vogliono, con me che non lo fa? Cioè ti dico che una cosa non ne voglio, tu non ne fai, non hai compreso. E se cosa so qui? La proprietà tua, so, col tuo divertimento, non ho capito. Certo. Grazie, vabbè, dai, adesso a casa tua, ma futti di. No, boh, cazzo ogni anno devo stare pure i frizzi, ma va a far putta, boh. Già passa tutto. Ma adesso mi sono stufato, adesso cambio mano, sto facendo l'allenamento con questo coso di mollette, sono da tre molle e devi stringere e mollare per i tendini, per i crampi. Ho capito, devi fare allenamento alle mani. Mi si sta graccando le dita delle mani con i bracci, capito, dalle medicine. E allora li devo stirare con questa molletta qua, capi? Mezz'oretta da destra e mezz'oretta a sinistra. Beh, ho capito. E se non mi sa grancano i dimmi, si dussineggiano i dito ogni adurori, tipo i crampi. Vabbè, fallo piano piano, grazie. So con tutta la sera a venire, prima a destra, poco a sinistra. Se no poi mi vengono dentro di noi quando sei dormito e ti scendi in canna. Ah, così è. E allora? Ma a chi ti credi, brucio in casa? Vabbè, l'anno ha già sarrato oggi. Manco una notte, né di dì né di notte. E a chi? Bruci, quando sei ribigliando il giorno ti rivinivano, o ti tiravano sulla cadresca, o ti dicia devo prendergli il sangue dall'inguine. Proprio da Rolingo, tutti i parti del bisogno mi sono svegliato a Rolingo, le figlie dobbiamo prendere e pigliarlo da Ivi o da Ribuzzi. Ce l'hai visto che va via Ribuzzi, faccio i bracci, tutti bene di oggi, ematoma, tutti niti, all'infini mi dai. Già ho visto. A me di notte è venuto un mal di pancia, guarda, non è proprio un mal di, un dolore proprio forte di tubo del capo, non mi succede, da mezzanotte allora mi sono alzato, perché quando stavo sdraiato era più forte, mi sono preso un occhio, ho aspettato un po', il dolore me l'ho sopportato, è forte, e poi già ho visto che stava calmando, mi sono sdraiato, mi sono riaddormentato, ma ho dormito malissimo. Ma non è che avevi qualche bolla d'aria, mi hai provato a sforzare in bagno, a andare. Quando ti capita così, devi fare, se non fai aria, prova a ingoiare così, no? E fai rutti. Quello lo fa anche aria, l'aria lo fa a me. Permesso. Avanti. Avanti, Bacchisio. Luca, chi è Bacchisio? Che mi sa di sì, Bacchisio, avanti. Oh, fallito, vuol dire non funziona. Niente. Luca, tu non ce l'hai una gabbia di uccisi, quelle quadre rettangolari? No. E allora domani me la compro. A chi si bisogna di chi? So fai di nuovi. E da poi lì, se il cugino vola la cuccia o l'ammazza nei 30 la gabbietta. Boh, adesso voglio comprare la gabbietta più grande. Col sipari a vedere. Ma dove sono? Due in casa ce li ho. C'è la giornata. Mi hanno fatto 3.000 bisonetti. Qualcuno è cresciuto un pochettino e poi ce l'hanno buttato da dentro la casetta. i, come si chiamano, gli spettrini, che si minoriti. Sono due uccellini belli, esotici sono. Come si chiamano, Paolo? Gli uccelli come si chiamano? Quali uccelli? Ah, non te l'ha messo, io non me l'ha messo. Spettrini, sono minuti, so. Non si sa, magari. Ma chi siamo, ma tu sì? Ciao Graziano, buonasera, ben ascoltato, come stai? Già mi sto riprendendo piano piano, come mai ti sento così basso? Ma papà sei sparito, ci sono io e giusta. Aspetta che attacco l'esterno, dai. Ehi, se no con questo sparisci ogni tanto e poi sei sottaruretto così. L'hai sentito Luca? A voglia, ciao Marchisio. Sta cambiando un'altra radio. Oh, non lo so se si chiamano spettrini, non me l'ha messo, sono minutini, sono tutti colorati. Ma sono diamantini allora? Diamantini si chiamano e cantano bene. Però, la gabbia è piccolina questa, secondo me per quello l'ammazzano e ci campano pure dalla gazzetta. Sì, i diamantini sono, dai. Sono belli. Ehi, me li avevate, mia sorella da un bel paio d'anni. Uno è morto e allora l'ho comprato lì in via Non So Circa da quell'amico tuo, lì all'angolo, dove c'era Giulio. Uno, il maschio. Però vado la stessa cosa, le uova le fanno un bel puro, anche gli uccellini. E poi gli uccellini la ammazzano e si campano pure dalla gazzetta. E loro li beccano tutti. E la prossima si rimangiano. E voglio provare a separare il maschio, a lasciare la donna solo con le uova, a vedere cosa annisce. Ascolta un attimo, grazie. Ehi, già sono qua. Grazie, adesso mi senti? Va al passaggio. 1, 2, 3, 5, vai. Sì, chiasso è forte, anche Luca ti ha sentito bene poco fa. Adesso stavi cambiando, già esci bene. Ehi, allora cosa mi dici di bello? Cosa ti dico di bello? La cura a casa sto sempre facendo. Mi hanno ricoverato perché mi aveva preso un'infezione. In genere ogni anno mi butti sempre, mi si era chiuso un polmone. E allora per forza in ospedale devo rimanere, perché lì vai a base di flebo, di cortisone, tramite indovena, capi, a pastiglie non fanno, e un sacco di altre medicine. Brutto, brutto, brutto. E non farti fregare più però, mi grazia, tu sei all'ordine del giorno allora. Bene, chi c'è? Non l'ho ascoltato. Luca, mi sono sentito. Luca, buonasera, avanti. Luca! Luca si è sentato, grazie. Non è che devo stare attento, non è che magari io sto pensando così. Siccome mia moglie l'ha influenzata e ha detto noi mi contagiava la prima di niente, il secondo giorno mi sentivo appena appena di un po' di tosse e un po' cura bitorra mi lui. La terza di rubesi e giù i rumeri che mi si è fatto buttare un brutto soccorso e me ne ricoverato. Lì le cose sono più chiare, grazie. In casa magari non ne ricoveri più, i chivi ti spulciano più bene, è meglio così, andare sempre a controllare. Già lo sanno le mani d'oro. Lo so, però io, agito, mi ho preso le medicine che prendo, anche l'antibiotico, ma ve la passa. Invece è giunto a casa, il dottore mi ha detto che lo vedi. E allora mi ha chiamato l'ambulanza e mi ci ha fatto portare al pronto soccorso, a ricoverare. Sì, dottore, ne so qualcosa. Due anni fa ho preso un'infezione al sangue e alle vie urinarie e ne si è fatto un mese di fidare. Ma io perché ho i polmoni malati, sono cronici, mi si era chiuso un polmone adesso, capite? Io non me ne sono gabbizzato, cioè me ne sono gabbizzato e va via più a fanno, capite? Però il dottore già mi ha visto in faccia, io non ne so, loro già lo sanno. Chiaro, grazie, bisogna aspettare i consigli dei medici, bisogna rispettarli. Loro non sanno più di noi, siete che cosa, che bisogna andare via, buonanotte, sapere i luci. Tanto essere qua, essere là, la notte si cosa, anzi che date pure un meglio, no che pastiglie, è boom. Le pastiglie non fanno niente. E infatti io mi facevo mezzo litro di coso, di antibiotico ogni lì, mezzo litro ne va via ogni volta. Ehi, non ci fatti flebbo, ampulli di antibiotici e ampulli di cortisone, infatti la glicemia 400, 450 e tuttora adesso che sono a casa mi sto prendendo in pastiglie, di meno però è sempre in pastiglie, la glicemia ce l'ho 300, 400, 490 e è sempre un casino per riparare. A una parte i conti dall'altra, purtroppo è così, cosa devo fare? Piano piano, grazie, piano piano già si mette a posto le cose, piano piano, senza avere fretta. E la glicemia è fermatissima, sta pure c'è una parte e buca all'altra. Beh, è logico, quello lo so io, ma pure è di a Milanita che la discassa. C'ho questo mal di testa, mi sta scoppiando la testa. Mi misuro la glicemia a 499. Capita, di arugro io faccio mal di capo. E allora mi hanno fatto un pochino di insulina in più. Non ho cenato più tardi. Già mi si è abbastanza. Quando ho cenato ce l'avevo 235. E mi hanno dato a cenare un po' di riso e buh. E bisogna stare un po' a regime allora. Piano piano, grazie, già passa. Piano. Ettore Squallido, non si è sentito stasera? Sì, però mi ha detto che alle 6:20 doveva andare a pigliare la moglie, mi sembra, non so cosa doveva fare. Se faceva il tempo già rientrava. Non sapeva che era rientrava, capi? Cioè Maria è giunta niente e si è ritirato, se si liberava già entrava pure. Luca c'era adesso, si è assentato, stava facendo qualcosa. Luca Flippa non l'ho sentito. E nessun altro. Luca ci sì. No, oh, sta mangiando. Milluvi, mi ci sta cercando Bacchisio tu. Buonasera signor Bacchisio, ben sentito. Hai visto Graziano? Che limpida la voce che ce l'ha. Ciao Ottore, buonasera, ben ascoltato. No, lo sento più chiaro, è chiara la voce di Graziano. Non sembra neanche Graziano adesso. Perché l'ho lavata con Perlana, Ava come lava. Ava come lava, Pulcino Nero. Calimero. Grazie Ottore, cosa perché gli dica io? Abba come l'abba! Senti, ma chi? Che è te bubù a Gizzo? Graziano, c'è la nostalgia, mancava la voce di Graziano in Telecosmo, in radio, era mancava qualcosa di buono. Ma chi? C'è all'ospedale, vieni da Nizzicco, che era la bocca a bescia! Verde ocra era, nera era più in tagli in occhi. Lo dottore mi ha detto che vi ha giovato a risuscità. Di domani erano i rugli che si udori. Ma in che reparto io qui, grazie? All'ospedale al primo piano, non so cos'è, medicina. Insomma, chi sul reparto è chi entra in anuti, fa l'entrata lì ci dà mattezza in anuti, per lo più. A massimo l'indomani ci dovrai di tutti. Chi sei medicina generale. Ha giocato 15 di chimi e poi dai chimi si è portato in coso. Lunga degenza, allo quinto piano. Ce l'hai visto poco via Genere, va da verso le praterie, dugna notte, 5, 6, pure di lì, però di notte di più. Chi se ci arrivi la notte, arrivini. Dopo dai che mi riporteranno al quinto piano. Tu ti rubo poi, tu stai giorno, che al quinto piano, a pian terreno. Ma allora chi sei imbrigato a caramella? Ehi, dentro un sacco, vedi, bianco, veda. E chi ci sono, l'ultimo viaggio è ai prendi, in taxi andendi. E allora, un taxi giallo e bianco, veda, attore. Ehi, catta, bebe. Non lo conosci su piano, sì. Spera lì a postarti lì Gondor, tu da Londra in poi vieni vicino alla Ianna e la saletta d'aspetto, il Gondor. Ti ho compreso le macchie anche giù. A voltui so chi si graziato, a voltui, hai sentito una gara, appena intendi fianco di morto si tuffani. Non so così zenni, vieni a quadre, vieni, e io bobo. Ma crudeppo la rara di agitare di venire i parenti a stabilirli, chiedi lì negli altri pulcenni. E a chi sono d'accordo con gli infermieri che viene a coprire, che viene magna magna. Se mi fai avere un travaglio ti do condotto. E perché non lo so che così, e tutti i cani li guardi, la maggior parte sono bugnanni a ripidare, li vengo in tutti i colori, li vengo visto. E tra Iso e Giosso in Camposanto sono due, perché dire che loro tra Ianna si prende il travaglio, l'hanno avvoltoio, andano a ripidare e mi sono avvoltoi, non si può fare più nulla, bisogna essere fatto di piombo. Ehi, il Camposanto non mi ha testo, ma le bici da me, va bene, sì, sicuria a Pavlo, va a Ede, a Bugarni, a Mezzuta, lo danno locale. O a portarci la crema e la poi a pulire l'urna o se lo vuoi a buscarmi la casa oppure a pulire qualche locale, i vivi, da qualche parente, per carità, uno schifo pure una volta va e metti una barca che paghi quando si butti la poi e che passa lo tempo si mi torna a pagare. E ci sono avvoltoi, mi sono sempre al porto di mano. La pirina, è così. Avanti, tocco. Torre! Ora è passato l'avvoltoio, grazie. E abbacchi. Riprendi che ti ha rilanciato. Aspetta un attimino che sto mettendo a posto lo squelch. Ancora lo squelch si prende a posto, oh yeah. Non l'hai messo a posto ancora. Ma rampa il tiro il tuo squelch, sta zitto. Arregala a me che io riesco a consarlo, so col metodo come ti fallo. Lo pongo in la morsa in campagna, le col due attrinti e lo squelce entra aiuto aiuto. Ma io non li tocco mai di squelci, raro che non tocco la rabbia. Tu dai un po' cane da bette e bu. Oh, non tocco mai nulla, là cos'è prima a canale. Tratto solo un bussato a cingiato là e buco. No, non fece, non lo tocco mai anch'io. È regolato a questo livello e rimane così. A cingiato là. Boh. A chi ogni dica che tocchente, poi perché lo segno. Oh, non li ho mai toccato, ma adesso con quella radio che c'è un buon casino in canale. Non ne vorrei mai, lo davo sempre qui sul canale, cosa andò. Sì, qualche volta faccio una spazzolata per si intenuga anche lui, però poi ce lo rimetto nello stesso canale. Boh, anzi, pongo il blocco ed è bloccato sempre. Infatti, non diventa bloccato e andrà meglio. Marino, non si è inteso stasera, no? Non si è acciarato? No, stasera non l'ho sentito, mi pare mi ha mandato un messaggio stamattina o ieri, forse ieri, no stamattina, buongiorno, grazie che andiamo a travagliare. No, non è a travagliare così, non ne fate ne più, straordinari, nel comune se non ne paga più, niente straordinari, solo le ore lavorative e boh. No, mi ha fatto vedere la fotografia, l'hai mandato tu, a mezzodì. No, di mattina già lavora, però di sera straordinari non ne fanno fare più. Niente, mai così a mezzogiorno. Oggi devo lavorare. E niente straordinario, non se ne fate più. Solo quelle ore lavorative e basta. Eh beh, se no come ti fate a mangiarsi di denaro comunque? Quando ci dalle a chi si dirà appalto se li mangiano in comune, no? La Montessa è montonata in carriera. La Montessa ha stato più in alto. Tu, nelle pigliani a travagliare la surrata per aumentare i dipendenti, lo fate fare straordinari. La Montessa al cittadino. E allora, intanto Ava sta tra poco gli ha mandato le bullette di la tazza della Montessa. Come te la Russi? Mi arrivi dalla Russi, boh, 200 euro. L'accusa di l'aumento, roba a macchina. Come energia consumata è 95. Arrivi alle 200 e tutto dazzi. Ehi, oia. Allora, ti posso dire, in campagna l'ho già pagato 153 euro, senza trattanni, e in inferno ne tratta e vai a panno, non ci arrivavamo i piedi, nulla. Tu leggi, trasporto energia, cose, tasse, inocchi, riparazione, viene poco di paraoli e aumenta sempre la roba. Ehi, canone Rai, di Zottuino, roba la macchina, ma come ti si buffo? Vabbè, l'aveva detto, a stessarci la craccata, luce, gas, acqua, l'aveva detto mi, all'inizio dell'anno, che ci sono stati gli aumenti. Ma ogni anno mi intendi, a piacere su gli uvasini, miserabili. Aveva che è entrato di Musi, il governatore nuovo, il Pasadigna. A vedere, un bel cose fate, un bel portafoglio se fa dietro. E allora, fate nei bizzarri. Ma, beh, io chiudo là, che mi sono portato un po' troppo, che mi basaleggio un po'. Ce la sentiamo, Bacchi. Ciao, buona cena e buon tutto. Ciao, Tore, se mi senti. Ciao, Gian Maria, se sei in ascolto. Ciao, Luca, se sei in ascolto. Salutoni a tutti. A domani, riprendi il Ciubacchi. Ehi, ciao Graziano, salutissimi, grazie di tutto, grazie delle quattro chiacchiere e stammi bene, saluta la signora. A domani se coincide il Graziano. Avanti Tore, ci sei? Già ci sono. Ci sentiamo Graziano, alle prossime, ok. Se coincide domani, ok. Ciao Grazia, stammi bene. Ti prendi i bacchi. Ehi, ehi, e lo squelch è riparato l'hai tu? Oh, non riesci a rigurarlo. No, l'intensità dello squelch l'ho messa a giubbutta 3, però non riesco a tenerlo fermo. È compreso. Scivola? Se ne scivola allora. E si è disattivato, si è. Hai capito, bacchi? Aspetta che cambio radio, la batteria scarica. Passa sulla 27 direttamente. Via.